L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, i fatti, le opinioni, i protagonisti della settimana da sabato scorso 14 novembre a ieri venerdì 20 novembre saranno al centro della puntata di oggi, quindi cercheremo di passare con disinvoltura dalla politica italiana ancora avvitata attorno al tema della giustizia, ma naturalmente c'è dell'altro dalle aule del Parlamento. Poi passeremo al vertice della FAO, per tutti considerato un fallimento, al lungo viaggio di Obama in Asia, per molti considerato invece un insuccesso. Naturalmente parleremo della morte improvvisa e tragica del trans Brenda e dell'acqua, argomento insolito ma che è entrato prepotentemente nel dibattito pubblico con la solita purtroppo tara ideologica che poco aiuta peraltro a capire la questione. Ma prima di tutto partiamo dal Brasile. Nel senso che mercoledì arriva, dopo un'attesa lunga, estenuante e direi in fondo anche inspiegabile, il verdetto del Tribunale Supremo Federale Brasiliano, che poi sarebbe la Corte Suprema del Brasile, sull'estradizione di Cesare Battisti. La storia è nota, non mi dilungo quindi nelle premesse. Riascoltiamo invece le cronache di giovedì mattina da Brasilia, Roberto Darin, che è corrispondente alle Sole 24 Ore, e poi le reazioni italiane con Alessandra Tedesco. Dopo 11 mesi di discussioni, votazioni e polemiche, il Tribunale Supremo del Brasile ha deciso. L'ex terrorista italiano Cesare Battisti, 54 anni, condannato all'ergastolo per 4 omicidi, sarà estradato in Italia. Il voto decisivo è stato quello del presidente del tribunale brasiliano Gilmar Mendes, che ha ritenuto che gli omicidi per cui Battisti è stato condannato siano crimini comuni e non politici. Alla base della decisione di Mendes, l'analisi della giurisprudenza di Spagna e Italia. Il caso dell'ETA in Spagna e quello di Adriano Sofri in Italia. Si ribalta così la decisione presa lo scorso gennaio dal ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro, che aveva conferito a Battisti lo status di rifugiato politico. Tuttavia la decisione del tribunale non comporta automaticamente l'estradizione di Battisti. I giudici hanno infatti deciso di conferire al presidente brasiliano Lula l'ultima parola sull'estradizione, che dovrebbe essere confermata proprio perché Lula, pochi giorni fa a Roma, ha dichiarato che avrebbe rispettato la decisione del Tribunale Supremo brasiliano. La Corte brasiliana ha appena dato il suo ok per l'estradizione di Cesare Battisti. Così la notizia arriva alla Camera dei Deputati e gli applausi sono bipartisan, superano le divisioni di questi giorni ed esprimono la stessa soddisfazione Fini e Schifani, linea condivisa dal PD Piero Fassino. È giusto che si assicuri alla giustizia chi, con i suoi comportamenti, si è reso responsabile di reati che hanno portato alla morte di cittadini innocenti. Per il ministro degli esteri Frattini è stata premiata la linea di responsabilità e di rispetto del governo italiano, che ha sempre sottolineato gli storici legami di amicizia con il Brasile. Elogio alla linea Italia anche il ministro della difesa, La Russa. È una grande soddisfazione, una vittoria del sistema Italia e credo che sia soprattutto un bene per i familiari delle vittime assassinate dal terrorista Battisti, che non avrebbero potuto sopportare da un paese amico come il Brasile una decisione diversa. E fra i parenti delle vittime, Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso e lui stesso rimasto paralizzato nella sparatoria, dice: si è riconosciuto che i tribunali italiani non sono tribunali di guerra. Gli fa eco Adriano Sabadin, figlio del macellaio di Mestre ucciso da Battisti. Se fosse rimasto dov'era, i nostri cari sarebbero stati ammazzati due volte. Quasi tutti lo avete sentito, sono d'accordo con la scelta fatta dai giudici brasiliani. Adesso aspettiamo invece la scelta finale, definitiva di Lula, che dovrebbe essere in linea poi con quanto detto dai giudici, anche se forse bisognerà aspettare un po' di tempo. Soltanto un paio di sottolineature sulla vicenda Battisti. Da un lato voglio dire insomma che la cosa più importante di tutta questa decisione è che Battisti è stato considerato non un perseguitato politico, e questo è un giudizio anche sul sistema giudiziario e carcerario italiano, che dunque è in linea con lo Stato di diritto, ed è una fortuna per noi questo. E poi voglio spendere una parola sulla Francia, che per anni ha protetto Battisti, poi lo ha lasciato o se volontariamente lo ha fatto scappare, e oggi sia a livello della politica sia soprattutto a livello dei tanti intellettuali che sono sempre stati dalla parte di Battisti non ha ancora detto una parola sulla vicenda e sulla sentenza brasiliana. Ora parliamo della morte invece di Stefano Cucchi, perché giovedì è stato riesumato il corpo e poi la settimana prossima ci saranno nuovi esami. Intanto arrivano sviluppi in settimana nell'indagine e poi c'è un trasferimento che fa decisamente riflettere. Sentiamo dai GR di giovedì mattina Elisa D'Alto. I tre medici del Pertini indagati per omicidio colposo lavoreranno in un altro settore della ASL Roma B. Il trasferimento farà calmare la situazione diventata insostenibile, ha detto il direttore generale della ASL Floride Grassi. Emergono nuovi dettagli sulla testimonianza resa da un detenuto del Gambia che sarà ascoltato nuovamente sabato in incidente probatorio. Il testimone conferma la versione degli inquirenti, che hanno iscritto nel registro degli indagati anche 3 agenti con l'accusa di omicidio preterintenzionale. L'uomo ha infatti raccontato di aver visto 3 persone, probabilmente agenti di polizia penitenziaria e non carabinieri, picchiare Cucchi nel corridoio davanti alle celle del Tribunale di Roma. Ed ora una bella sventagliata di politica italiana. Purtroppo, lo dico con una certa amarezza, la musica che eseguono i suonatori in Parlamento, a destra e a sinistra, vale per tutto il discorso, sia chiaro, è un po' sempre la stessa. Tutto, o comunque molto, ruota attorno alla giustizia e al tema irrisolto dei processi del Premier. Se volessimo tracciare un filo rosso di questi giorni, possiamo prendere 4 figure che hanno parlato, si sono parlate tra di loro, hanno replicato uno all'altro, rispondendosi a volte anche per le rime, e sono, le cito in ordine cronologico di interventi, tutti poi finiti in prima pagina, Fini, Schifani, Berlusconi e il Presidente della Repubblica Napolitano. Dunque il primo a parlare in questi giorni, come sempre caldi e concitati, è Fini, il Presidente della Camera, che invita a fare riforme, specie appunto sui temi caldi della giustizia, anche con l'opposizione, quindi ennesimo distinguo da Berlusconi in questa lotta, in questa sfida tutta interna al PDL. Poi martedì parte all'attacco, in modo, come è stato segnalato anche dagli esperti, dagli osservatori, irrituale, il Presidente del Senato, Schifani. Sentiamo Elisabetta Fiorito. Invoca lo spauracchio delle elezioni anticipate il Presidente del Senato, Renato Schifani. Invocazione suggerita dai falchi del Popolo della Libertà e a tratti auspicata dal Premier Silvio Berlusconi contro la fronda finiana che guarda con sospetto al processo breve. Così, all'indomani dell'ennesimo strappo del Presidente della Camera, Franco Fini, interviene la seconda carica dello Stato. Compito della maggioranza è garantire che il Parlamento e il programma del governo trovi la compattezza degli eletti per approvarlo. Se questa compattezza viene meno, il risultato è il non rispetto del patto elettorale. Se ciò si verificasse, giudice ultimo non può che essere, attraverso nuove elezioni, il corpo elettorale. La risposta del fronte finiano non tarda ad arrivare. C'è un clima irrespirabile, ma non per colpa nostra, spiega Fabio Granata. Per Ignazio La Russa servono nervi saldi e idee chiare, 2 cose che non mancano al PDL. E Italo Bocchino nega la volontà di andare alle urne. La maggioranza c'è sia alla Camera sia al Senato ed ha ampi margini in quanto ai numeri. Quindi ha il dovere di portare avanti il programma di governo. Preciso dove sta l'irritualità, come ho detto prima, di Schifani, perché insomma l'argomento scioglimento delle Camere di solito spetta al Presidente della Repubblica, anzi è un argomento tabù per i presidenti dei 2 rami del Parlamento. Invece Schifani è entrato a piedi uniti nella contesa, nella questione. Inizialmente Berlusconi non parla, non dice nulla sulle parole di Schifani, poi naturalmente mercoledì arriverà invece il suo commento, lo stesso giorno in cui tiene banco anche la vicenda Cosentino. Allora sentiamo dal GR delle 7 di giovedì, prima Alessandra Schepisi e poi ancora Elisabetta Fiorito. Io rimango al mio posto, l'unico che può decidere è il presidente Berlusconi. Nicola Cosentino tira dritto, respinge ogni addebito e anzi parla di una prevenzione dei magistrati nei suoi confronti, non un fumus persecutionis ma un fumone di persecuzione. Il sottosegretario Campano si difende per 2 ore dinanzi alla giunta per le autorizzazioni a procedere, che deciderà probabilmente mercoledì prossimo sulla richiesta di arresto da parte della magistratura di Napoli, ma Cosentino è certo che alla fine quel provvedimento verrà cassato. Ciò che oggi dice il GIP non è Vangelo, ma il suo provvedimento è oggetto di riesame da parte del Tribunale del Riesame, da parte della Cassazione, quindi ci sono diversi momenti di valutazione. Intanto l'Italia dei Valori ha depositato la mozione di sfiducia nei suoi confronti, mentre il PD ne ha presentata un'altra, iniziative queste che creano tensione all'interno della maggioranza, con alcuni deputati finiani pronti a votarle. Lo spauracchio delle elezioni anticipate dura appena 24 ore, prima arriva la smentita con una nota: nessun pericolo di tornare alle urne, spiega Silvio Berlusconi. Con Gianfranco Fini non c'è niente da chiarire. Subito dopo il Premier arriva a Montecitorio per votare la fiducia al decreto sulla privatizzazione dell'acqua, ma l'attenzione è sempre sul possibile ricorso alle urne. Io non ci ho mai pensato, mai, perché abbiamo avuto un incarico, oggi ho fatto un comunicato preciso, abbiamo i numeri per governare fino alla fine della legislatura, abbiamo un programma da realizzare, quindi queste contorsioni della politica politicante non mi appartengono e io ne sono lontanissimo. Tocca quindi al Premier spiegare il perché della dichiarazione del Presidente del Senato, Renato Schifani. Io ho letto quello che ha detto ove cadesse la maggioranza, è chiaro che ove cadesse la maggioranza non si può pensare ad un governo diverso dalla maggioranza che hanno deciso gli elettori con il loro voto. Ha detto una cosa, se mi consentite, ovvia. Berlusconi nega poi di aver chiesto agli alleati di accelerare sulla giustizia e spiega che il taglio dell'IRAP verrà fatto compatibilmente con i conti. A chiudere il cerchio di questo botta e risposta tra le alte cariche dello Stato e il leader del Popolo delle Libertà, perché ricordo che è tutta una vicenda interna, soprattutto alla maggioranza, arriva giovedì l'intervento di Napolitano. Sentiamo allora il resoconto delle parole del Presidente della Repubblica con Vincenzo Miglietta. È una riflessione sui principali temi di politica interna, quella che il Capo dello Stato offre alla stampa prima di lasciare la Turchia. Punta di fatto il dito Napolitano sulla scarsa attività di Camera e Senato e parla per questo di grosse difficoltà. Oggi ci sono delle grosse difficoltà in questo senso, che tra l'altro sono anche difficoltà dal punto di vista della operosità, della densità dei lavori parlamentari e della bontà dei prodotti legislativi. Il Presidente della Repubblica liquida poi con poche battute le polemiche relative all'ipotesi di voto anticipato. Non faccio da lontano commenti sulla politica italiana, poi tornerò in Italia, ascolterò, vedrò, può darsi anche che vede il Presidente del Senato. Altro capitolo, quello delle riforme. Non so se ci siano novità, dice il Capo dello Stato, ma mi sembra che qualcosa si muova. Napolitano promette comunque di intervenire ancora su questi temi nel prossimo futuro. Sul giro di boa, infine, del suo settennato, il Presidente della Repubblica dice: la democrazia dell'alternanza resta la mia linea guida. Finora abbiamo sentito molta politica, politichese, politicante, scusate il gioco di parole, che andrà avanti poi chissà per quanto tempo, insomma, questa manfrina piuttosto stucchevole e che sicuramente non giova poi a risolvere i veri problemi del paese. Per un attimo invece voliamo in Europa, dove fino a pochi giorni fa circolava con ottime quotazioni il nome di Massimo D'Alema per ministro degli esteri europeo, questa nuova figura molto importante a livello europeo. Purtroppo alla fine non se ne è fatto nulla, dico purtroppo perché da italiano sono dispiaciuto, sicuramente avrebbe fatto onore al nostro paese la scelta di D'Alema, che era anche appoggiata dal governo, quindi sarebbe stata una scelta bipartisan. Poi alla fine invece la nomina di D'Alema è naufragata, sono saltati fuori altri nomi ai più sconosciuti e proprio su questi nomi credo che ci si possa fidare del titolo che ieri ha fatto in prima pagina il Corriere della Sera, che ha scritto: l'Europa sceglie il basso profilo, non esattamente un elogio alle nomine. Sentiamo Sergio Nava. La strana coppia. Herman Van Rompuy, attuale premier belga e ornitologo, 62 anni, sarà il primo presidente stabile dell'Unione Europea. Catherine Ashton, 53 anni, baronessa britannica e attuale commissaria al commercio, sarà la nuova alta rappresentante. L'annuncio lo ha dato l'attuale presidente di turno, Frederick Reinfeldt. Historic press conference. Contro ogni pronostico, l'accordo è giunto in tempi rapidi. Dopo giorni di negoziati confusi, le tessere sono andate a posto in poche ore. I socialisti hanno abbandonato la candidatura di Massimo D'Alema quale nuovo Mr. Pesce, rinfacciandogli una nomina sostenuta da un governo di centrodestra. Il premier britannico Gordon Brown ha abbandonato al suo destino l'amico nemico Tony Blair, tirando fuori con maestria l'asso nella manica, una donna quale alto rappresentante. Nessuno ha avuto da ridire e Brown a quel punto non ha obiettato all'europeista Van Rompuy quale presidente. Vince l'Europa, che alla sua testa trova un convinto sostenitore del progetto comunitario, nonché abilissimo mediatore politico, col tempo forse si farà pure conoscere. Vince la Gran Bretagna, che piazza una sua rappresentante, anche lei semi sconosciuta, a capo del potente e nascente servizio diplomatico comunitario che conterà su 5.000 funzionari. Perdono D'Alema e l'Italia. Roma appare sempre più marginale per scelta e debolezza nel complesso meccanismo della diplomazia europea. L'occasione per il riscatto potrebbe giungere con le prossime nomine a BCE ed Eurogruppo, sempre che Francia e Germania non ci mettano lo zampino. L'ho lasciata volutamente per ultima, ma sicuramente è la notizia più chiacchierata e letta di queste ore, una notizia terribile, una notizia tragica, che non si può definire tecnicamente politica, ma sicuramente ha un riflesso politico molto importante. Sto parlando della morte, tutta da spiegare, per ora avvolta nel mistero, della trans Brenda, una delle protagoniste dell'affare Marrazzo. La notizia è di ieri, la procura peraltro non esclude nessuna pista, e anche quella gravissima dell'omicidio. Sentiamo allora Chiara Di Michele, che ieri ha fatto tantissimi aggiornamenti proprio dal luogo dell'incendio fatale a Brenda. L'hanno trovata morta asfissiata dal fumo provocato da un incendio nel suo appartamento. Ora si indaga per omicidio volontario. La transessuale brasiliana Brenda, coinvolta nella vicenda Marrazzo aveva 32 anni e viveva in un piccolo monolocale in via Due Ponti, periferia nord di Roma. Il suo corpo riverso in terra, seminudo, è stato rinvenuto la notte scorsa. Nessun segno di violenza, secondo la polizia scientifica. Accanto al cadavere una bottiglia di whisky e delle valigie pronte. Forse Brenda voleva partire per tornare nel suo paese, come rivela una sua amica transessuale, Barbara, che ieri sera dice di averla incontrata in un parcheggio e aver bevuto del whisky con lei. Come sempre, calcheremo, ha preso un bicchiere di qualcosa per bere, di Valentine, e dopo lei ha fatto la strada di lei, ha fatto a mia, scusa. Ho lasciato lei proprio in un parcheggio. Io ho andato a casa a mi truccare per poter andare al lavoro. Intanto in questura sono state ascoltate una quindicina di persone, vicini o conoscenti della vittima. I magistrati hanno disposto l'autopsia, esami tossicologici e ordinato il sequestro del computer della vittima, trovato bagnato nel lavandino, forse per renderlo inutilizzabile perché contiene dati importanti. Nell'appartamento sarebbero state trovate anche tracce di liquido infiammabile. Ancora tante le domande sulla morte di Brenda, poche le risposte. Adesso spostiamoci in Oriente, che è stato teatro in questi giorni, in questa settimana, della prima visita di ufficiale di Obama, del presidente americano. Quasi una settimana trascorsa tra Giappone, Singapore, Cina, che è stata poi la tappa centrale e più ricca di contenuti, e la Corea del Sud. Devo dire onestamente che a leggere i commenti un po' di tutti i giornali italiani ed esteri non si può certo parlare di successo di Obama, che soprattutto davanti a Hu Jintao, davanti al leader cinese, non è apparso troppo temerario come magari ci si aspettava da Obama. Sentiamo però sul passaggio cinese di Obama questo servizio molto interessante, molto curioso, di Cristina Valotelli, firmato lunedì, giorno in cui Obama incontra un gruppo di studenti universitari cinesi. L'evento è seguito sul web e proprio internet senza censure e la libertà di espressione sono tra i temi affrontati da Obama, che ha risposto alle domande di alcuni giovani cinesi a Shanghai. Buon pomeriggio, si sforza di dire in cinese, scatenando gli applausi. It is a great honor. La prima domanda di una studentessa sulle relazioni tra le due potenze. Obama non risparmia elogi alla nazione che lo ospita, ma ricorda anche come i diritti umani siano universali e vadano applicati dovunque, anche in Cina, dove i dissidenti sono incarcerati e i diritti delle minoranze schiacciati. Torna poi sul tema del clima, dopo il vertice APEC di Singapore, che ha praticamente sepolto la speranza di un accordo globale a Copenaghen. Cina e Stati Uniti, tra i maggiori consumatori di energia, devono fare degli importanti passi in avanti e sviluppare nuove strategie. Ho già annunciato ad inizio trasmissione, c'è un tema decisamente insolito che con una certa prepotenza è entrato nel dibattito in questi giorni e che naturalmente interessa a tutti, direi anzi che è un tema che come nessun altro interessa veramente chiunque di noi. Sto parlando dell'acqua, che è stata suo malgrado protagonista del decreto Ronchi che è arrivato alla Camera in questi giorni. È stata posta una fiducia che ha creato anche qui molte polemiche, e tra i punti appunto del decreto Ronchi c'è la liberalizzazione della erogazione dell'acqua. Tra poco ne parliamo con un ospite in studio, adesso ascoltiamo la cronaca di mercoledì mattina. Palazzo Chigi blinda il decreto Ronchi sul provvedimento, che contiene norme che vanno dalla riforma dei servizi pubblici locali, compresa la liberalizzazione dell'acqua, le norme sulla Tirrenia. Il governo pone la fiducia. Il testo, spiega in aula il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito, prevede adempimenti comunitari che non possono essere rinviati. Autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge numero 135. Il decreto scade il 24 novembre, la fiducia sarà votata oggi nel pomeriggio e il via libera definitivo arriverà domani alle 13. Critica l'opposizione, che punta il dito sulla 26esima fiducia del governo Berlusconi. I Verdi preannunciano un referendum, la Sereni, Partito Democratico, sull'acqua spiega. In questo caso si sta parlando di un favore fatto a pochi gruppi che cadrà sulle spalle delle tariffe e delle bollette dei cittadini. Il testo è migliorabile, lo faremo con la finanziaria, ma l'acqua resta un bene pubblico, garantisce dalla maggioranza cota della Lega. Su questo ci teniamo a garantire la specificità di quelle aziende a carattere pubblico che ben operano nell'interesse generale. Era la voce del collega Vincenzo Miglietta. Per la cronaca ricordo che giovedì è arrivato il voto finale sul decreto Ronchi, mentre per parlare soprattutto dell'acqua, che poi è il vero pomo della discordia del provvedimento del ministro. Abbiamo Carmine Fotina del Sole 24 Ore. Buongiorno Carmine. Buongiorno. Allora, spogliamoci subito della questione ideologica che spesso condiziona e ha condizionato il dibattito sull'acqua e che a mio avviso non serve a fare chiarezza, perché non per forza il pubblico è meglio del privato o viceversa. Vorrei invece capire se, come dicono i detrattori del provvedimento, in parte anche la Lega ha mostrato delle obiezioni, con questa legge, con questo decreto, l'acqua non è più un bene pubblico. Cito soltanto delle parole dette un po' con quella vena populista che lo contraddistingue spesso, dette da Di Pietro, che addirittura in Parlamento ha tuonato: la povera gente verrà ridotta alla sete. Siamo davvero a questo stato dell'arte, Carmine? Ma direi che per fare chiarezza bisogna entrare un po' nel dettaglio della norma e partire da un dato di fatto. La norma prevede e stabilisce, chiarisce che l'acqua resta un bene pubblico. Questo è stato inserito anche dopo un intervento del PD ed è un principio abbastanza chiaro da cui partire per fare qualsiasi tipo di ragionamento. La liberalizzazione e l'ingresso dei privati riguarda la gestione operativa dell'acqua. In sostanza si stabilisce che c'è spazio, ci sarà spazio, dovrà esserci anzi, per i privati che dovranno vendere di fatto l'acqua per conto dello Stato, cioè saranno dei fornitori del servizio, dei gestori per l'appunto del servizio. È chiaro che il peso del privato non è ininfluente, ma per capire quanto il privato potrà contare c'è comunque bisogno di un ulteriore passaggio. Nel decreto infatti si stabilisce che i privati siano affidati dei compiti operativi, ma non si dice quali, cosa che dovrà chiarire un apposito regolamento che il ministro degli affari regionali Fitto ha promesso in arrivo già entro l'anno. Ecco, io vorrei capire innanzitutto cosa vuol dire che l'acqua rimane un bene pubblico e perché è stato così importante metterlo nero su bianco nella legge. Ma la proprietà resta pubblica, il che fa sì che eventualmente dovessero cambiare anche indicazioni o comunque questa privatizzazione dovesse dimostrarsi per assurdo o, speriamo di no, inefficace, si potrebbe tornare, diciamo, indietro dal momento che l'acqua resta un bene pubblico. Di fatto il tentativo è quello di dare più efficienza a un sistema che negli anni ha mostrato, diciamo, ovviamente un grado di malfunzionamento abbastanza elevato. Poi è chiaro che si può discutere sul discorso tariffario, perché le tariffe, questa è la grande paura, che è la grande paura ovviamente, passare ai privati significa aumentare le tariffe. Beh, probabilmente bisogna ammetterlo, sì, ci sono stime forse un po' esagerate dei consumatori che parlano di aumenti possibili del 30-40% quando tutto il processo di privatizzazione sarà portato a termine. È difficile dire se queste percentuali sono veritiere, ma è chiaro che un privato che entra nel business dell'acqua ha l'interesse a migliorare la rete, a fare investimenti e ammodernamenti che dovrà in qualche modo ripagare con le tariffe. Almeno sulla carta dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così sostanzialmente. Di fatto però, anche se ovviamente in proporzioni minori, lo stesso principio vale anche oggi, nel senso che anche le aziende pubbliche possono chiedere adeguamenti tariffari dell'acqua che devono essere stabiliti dall'ambito territoriale, a fronte però di investimenti che in qualche modo loro garantiscono di fare nel corso degli anni. È un sistema che chiaramente con la privatizzazione, con l'ingresso dei privati nella gestione operativa, potrà accentuarsi. Naturalmente a nessuno fa piacere vedersi in bolletta un aumento di diversi euro, però ricordo per precisione, per dovere di cronaca, che le tariffe italiane sull'acqua sono tra le più basse in sì. Europa e nell'Occidente. Però in tutto questo l'abbiamo ancora detto che poi nella prassi quotidiana di certi comuni in parte la privatizzazione è già partita, ci sono già dei servizi in mano a privati. Ecco che cosa ha scoperto la collega Cristina Carpinelli in questo suo piccolo ma interessante reportage. Due storie, due pareri. La prima ci porta a Palermo, dove è stata fatta una gara vinta dalla APS Acque Potabili Siciliane. Nel 2021 questa società per azioni controllerà le acque dell'area palermitana. Secondo il direttore dell'acquedotto palermitano, se il privato si sobbarca il costo dei lavori di rifacimento e manutenzione delle reti idriche, il singolo cittadino pagherà tariffe d'acqua più alte. Sentiamo Guido Catalano, direttore dell'AMAP, ovvero l'acquedotto di Palermo. Si richiedono risorse elevatissime per fare i depuratori, le fognature che sono ormai insufficienti in moltissimi comuni e rifare reti idriche che perdono circa il 50-60% dell'acqua che vi viene immessa. Se queste società private o parte privata e parte pubblica dovranno gestire il servizio integrato, dovranno recuperare le risorse per gli investimenti dalle tariffe che non possono non aumentare. Ora invece andiamo ad Arezzo. Nuove Acque S.p.A. è una società nata nel 99 per la gestione del servizio idrico integrato. Il capitale azionario di Nuove Acque è diviso tra soci pubblici 53,84% e soci privati 46,16%. I cittadini pagano di più? Sentiamo Jérôme Dusiec, che è amministratore unico di Nuove Acque S.p.A. Assolutamente un falso dibattito, perché la tariffa dell'acqua è normata da un decreto ministeriale ed è programmata dall'autorità di ambito. Risulta da un calcolo fra gli investimenti realizzati e i costi operativi sostenuti della società. Allora, mi sembra di capire che la legge arriva dove la realtà poi dei fatti, la concretezza della vita quotidiana è già arrivata da tempo. Siamo in compagnia di Carmine Fotina della redazione romana del Sole 24 Ore, abbiamo già sviluppato alcuni temi importanti legati all'acqua, abbiamo anche parlato della possibilità effettiva di un aumento delle tariffe, ci sono ancora alcuni punti rimasti in sospeso. Innanzitutto, quale authority potrebbe e secondo te invece dovrebbe vigilare a questo punto su un mercato che si apre ufficialmente ai privati? Questo è un punto chiave. Prima parlavamo tutto mi sembra rimasto in evaso nel decreto. È ancora in evaso. Prima parlavamo del regolamento attuativo, ma c'è anche la questione dell'authority. Del resto, quando ci sono stati grandi processi di liberalizzazione in Italia, la nascita di un'autorità di regolamentazione è stata contestuale. Pensiamo alle telecomunicazioni o pensiamo all'energia. Accadrà anche con l'acqua, non si conoscono ancora i tempi, però né si conosce, diciamo, il garante che dovrà vigilare. Ci sono tre ipotesi in questo momento in campo. La prima è una estensione dei poteri attualmente conferiti all'autorità per l'energia, che si troverebbe a vigilare anche sull'acqua. La seconda è quella di un'estensione dei poteri di un comitato di vigilanza sulle risorse idriche, che già oggi è attivo, anche se con poteri limitati. E la terza, che è quella che forse è più auspicabile a questo punto, è la creazione di una vera e propria authority per l'acqua, che dovrebbe avere due compiti quantomeno fondamentali, vale a dire vigilare sulla qualità dell'erogazione dell'acqua e anche vigilare sull'aumento delle tariffe per capire se è congruo o meno agli investimenti che poi si andranno ad effettuare. L'ultima cosa, rimane poi il problema della qualità del servizio, che finora, dobbiamo dirlo apertamente, insomma, in Italia non è stata delle migliori. Io personalmente sono anche disposto a pagare un po' più l'acqua, certo, per avere un servizio migliore. Io cito soltanto alcuni dati per far capire meglio di cosa sto parlando e su questo poi vorrei un tuo commento e capire se poi il privato può effettivamente migliorare la situazione. Secondo un'inchiesta di Cittadinanza Attiva, addirittura il 34% dell'acqua immessa nelle tubature viene dispersa, quindi un terzo dell'acqua viene buttata via di fatto. Mentre ho scoperto con raccapriccio che in Italia la fognatura, il sistema fognario, raggiunge soltanto l'84% degli italiani, quindi un 15%, un 16% rimane ancora senza fogne. E ancora peggio per gli impianti di depurazione, perché siamo soltanto al 74% del territorio. Tutto questo potrebbe sparire o potrebbe migliorare grazie al privato nella gestione dell'acqua? Ma i presupposti possono esserci, sì, soprattutto entreranno società di grande esperienza nel settore. Bisognerà però avere pazienza, nel senso che una cosa che forse non abbiamo detto è che ci sono ancora un po' di tempi davanti a noi per arrivare, ecco, a un capovolgimento totale della situazione, perché i primi cambiamenti ci saranno nel 2011 nel caso delle società quotate la tabella di marcia va ancora più in là, con un processo che si chiuderà tra il 2013 e il 2015, quindi per capire, diciamo, i veri effetti di questa riforma c'è ancora da aspettare. E quindi vedremo, insomma, che cosa succederà nel tempo. Io ringrazio Carmine Fotina della redazione romana di Roma, che ci ha accompagnato in questo viaggio per capire come cambierà il panorama dell'acqua in Italia. L'acqua naturalmente rimane un tema centrale per tutto il mondo, lo sarà forse anche in un futuro, perché ce ne sarà sempre meno e sempre più agguerrita sarà la lotta per trovare acqua disponibile. Credo che sia un tema che sta a cuore anche alla FAO, che si è riunita in vertice in questi giorni a Roma, vertice al quale hanno mancato all'appello tutti i grandi big della terra. Abbiamo invece visto facce note e purtroppo impresentabili, come quella per esempio di Mugabe. Tutti hanno detto che il vertice è stato un fallimento. Allora sentiamo la chiusura dei lavori in questo servizio di Maria Chiara Grandis. Not the responsibility of FAO and certainly not the responsibility of a summit. Risolvere il problema della fame nel mondo spetta innanzitutto ai governi dei singoli paesi e non alla FAO, che non ha soldi né terra guerre, ma che rappresenta un forum di discussione. Il direttore generale Jacques Diouf pronuncia queste parole al termine di un vertice sulla sicurezza alimentare che non ha prodotto risultati concreti, ma che ancora una volta ha visto rinnovati impegni politici e scosso le coscienze. Al di là delle critiche delle organizzazioni non governative, è lui stesso a definirlo un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Da un lato ne loda il documento finale perché approvato all'unanimità dai 192 stati membri dell'organizzazione dell'ONU. Dall'altro però si rammarica che dei 44 miliardi di dollari chiesti non ci sia traccia. Così come ha fatto Papa Benedetto XVI, poi, anche Diouf ha condannato l'assenza dei leader delle grandi potenze all'incontro. E al termine del summit, il 71enne diplomatico senegalese alla guida della FAO dal 1993 ha confermato di non voler ricandidarsi nel 2012, quando scadrà il suo terzo mandato. Ultimi minuti del programma che voglio dedicare alla televisione, ovvero al passaggio al digitale terrestre che si sta consumando, sta avvenendo in questi giorni nel Lazio, ma poi vorrei parlare anche soprattutto di una battaglia molto dura che va avanti da tanto tempo ma che si sta inasprendo proprio in questi giorni tra Sky Mediaset e con la Rai, peraltro, che non credo resterà con le mani in mano. Per parlare di tutto questo abbiamo in linea Marco Mele del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno, ciao. Marco Mele, esperto di televisione, di mezzi di comunicazione, sia nei suoi aspetti tecnologici sia politici che entrano in gioco in questa questione molto controversa in questo momento. Prima però di parlare con Mele, ascoltiamo insieme un servizio di Elisa D'Alto andato in onda mercoledì mattina. Non sono giorni semplici per i telespettatori italiani. Lo switch off nel Lazio ha lasciato molte famiglie alle prese con la risintonizzazione dei canali, operazione non facile che ha causato oltre 100.000 chiamate al call center e che ha lasciato un segno anche sui dati Auditel. Lunedì sera nel Lazio gli ascolti hanno subito una flessione di quasi il 16%. Il digitale terrestre promette poi di inasprire il conflitto Sky Mediaset. Il gruppo di Cologno Monzese ha fatto ricorso all'antitrust contro la chiavetta che Sky distribuirà a partire da dicembre e che consentirà agli abbonati all'alta definizione di vedere gratis anche il digitale terrestre. Una scelta che secondo Mediaset viola la concorrenza e frena la diffusione dei decoder. In compenso su Sky in futuro potrebbe esserci sempre di più la Rai, come suggerisce Corrado Calabro, presidente dell'autorità per le comunicazioni. Secondo Calabro, la Rai dovrà stare anche sul satellite per consentire agli utenti di poter vedere i programmi nel periodo transitorio che porterà allo switch off in tutta Italia, cioè nel 2012. Marco Mele del Sole 24 Ore che ci sta ascoltando al telefono in collegamento con noi. E prima di tutto ti vorrei sottoporre una riflessione che così mi è venuta spontanea in questi giorni assistendo da abitante del Lazio al passaggio al digitale terrestre. Il digitale è in fondo un'eredità della legge Gasparri, credo una delle leggi più criticate, più controverse della storia repubblicana, si diceva scritta da Gasparri sotto dittatura di Berlusconi quando nella legislatura 2001-2006 venne realizzata. In effetti poi molti problemi sono rimasti irrisolti o peggio ingigantiti, uno su tutti c'era poi il tema gigantesco della concentrazione di mezzi di comunicazione in mano a pochi, però appunto una delle cose che ci ha lasciato in eredità è questo digitale terrestre. All'epoca sembrava così un oggetto un po' misterioso, adesso invece ci troviamo con Roma che è la prima capitale europea che passa al digitale, come peraltro chiede l'Unione Europea. È o no un paradosso di questa legge il digitale terrestre arrivato in Italia prima che in altri paesi? Dunque, rispondo, cerco di rispondere in ordine. Dunque, il digitale sta arrivando in tutti i paesi, ci sono anche paesi dove è più diffuso che in Italia, per esempio in Francia, però in Italia si è scelto un modello che va spiegato, che è diverso da quello di altri paesi europei, cioè di spegnere per aree regionali o territoriali, quindi di far passare intere aree, mentre altri paesi come la Francia proseguono fino a un momento in cui spegneranno tutte a livello nazionale, avanzando in tutte le regioni. Non sta solo in questo la specificità del modello italiano, ma sta nel fatto che l'Italia, proprio attraverso la legge Gasparri e attraverso la precedente legge 66-2001, nei fatti ha garantito nel digitale una posizione di assoluto privilegio agli operatori analogici esistenti. Quindi Rai e Mediaset ancora favoriti davanti agli altri. Il dato di fondo è che in Italia non esiste una norma antitrust sul numero di reti che ogni soggetto può controllare. E questo limita e molto la concorrenza sui programmi e la qualità dei contenuti. E qua basta vedere in Italia, a Roma, anch'io sono un abitante di Roma del Lazio, fare i canali da 1 fino all'800 decoder e si vede un'enorme, direi pazzesca, in analogico non si vedeva così, differenza di qualità di contenuto, anche dell'immagine tra Rai, Mediaset, la 7, che però ormai è praticamente un canale solo, uno o due canali, la 7, Sport Italia e poi tutti gli altri. Allora Marco, abbiamo ancora un paio di minuti e ho almeno due domande. La prima è se, in parte mi hai già risposto con questa prima considerazione, se il digitale terrestre a tuo avviso migliorerà l'offerta televisiva, la renderà più aperta, più ampia, usando un parolone, più libera o no? Questa è la prima domanda. Paradosso, direi in Francia, Gran Bretagna e Spagna sicuramente sì, in Italia io non rispondo certamente no, però con molti più limiti, molti più vincoli, qualcosa di nuovo ci può essere, basta che alcune emittenti locali riescano a consorziarsi, a riunire un po' le forze, a fare delle news regionali un po' migliori, con l'italiano volutamente sbagliato, cioè riescano ad elevare un po' la loro quantità di la qualità dei loro programmi. Qualche nuovo soggetto nazionale, francamente, lo vedo poco. In 30 secondi ci spieghi invece questa contesa che si è infervorata tra Mediaset e Sky su questa chiavetta che potrebbe permettere agli abbonati di Sky praticamente di bypassare l'abbonamento al digitale terrestre. Chi ha ragione secondo te in questa sfida tra giganti che sicuramente ha in ballo molti soldi? Lo devo dire l'antitrust, che sempre che si occupi, che peraltro negli ultimi anni il mercato televisivo non si è praticamente occupata. Qui è una battaglia fra due concorrenti che si sfidano su più terreni con armi diverse, nel senso che sul mercato pay Sky ha una posizione dominante, sul mercato della pubblicità Mediaset ha una posizione dominante, nessuna di queste due è sancita ufficialmente. È chiaro che Sky cerca quindi di avanzare sul mercato della pubblicità, da qui l'offerta di tutti i canali in chiaro col proprio decoder, perché è fondamentale che si usi il decoder di Sky per vedere la televisione, mentre per Mediaset al contrario è fondamentale che si usi il decoder digitale terrestre per vedere tutta la televisione, ma non Sky ovviamente, senza Sky ovviamente, perché a quel punto poi prima o poi una parte di questi decoder, una parte delle famiglie col decoder acquisteranno anche la tessera a pagamento. La materia direi che è estremamente complicata e controversa, credo che si protrarrà per molto tempo. Grazie per la chiarezza anche di quello che ci ha detto Marco Mele del Sole 24 Ore. Abbiamo ancora un minuto che lo spendo per parlare di sport, in una settimana in cui come sempre è successo molto, c'è stata la doppia partita della nazionale italiana di Lippi, anche se si è parlato molto poco del calcio giocato e più delle vicende di Cassano e di Amauri. Poi c'è stata la Formula 1 con le sue manovre di mercato, con Button che è passato, il campione del mondo che è passato alla McLaren. Però il caso della settimana è il fallo di mano eclatante, clamoroso e decisivo di Henry nella partita a spareggio tra Francia e Irlanda mercoledì a Parigi per le qualificazioni mondiale. Allora sentiamo i dettagli con Dario Ricci. Io non sono l'arbitro, ma ammetto che l'ho toccata con la mano, lo ammetto. Ma potevi dirlo all'arbitro. L'ho fatto, ma mi ha risposto allo stesso modo. Non sei tu l'arbitro. Dialogo reale, ma paradossale, tra Thierry Henry e un giornalista inglese negli spogliatoi dello stadio di Saint-Denis. Il bomber del Barcellona decide la sfida con l'Irlanda con un tocco di mano che vale l'assist dell'1-1 per il compagno Gallas e la qualificazione mondiale della Francia e l'eliminazione dell'Irlanda. Tra pattoni, 70 anni e almeno 55 passati tra campo e panchina, parla di più grande delusione della sua carriera. Ma a dar l'idea della figuraccia fatta ci sono soprattutto le reazioni dei media transalpini. I più benevoli parlano di successo senza gloria, i più sinceri di imbarazzo e vergogna. In poche ore l'affare si è ingrossato, è intervenuto anche il primo ministro irlandese, Trapattoni ha chiesto di ripetere non solo la partita di ritorno di Parigi ma anche quella di andata, persino il ministro francese dell'economia, forse anche così colpito dai giudizi durissimi della stampa francese, della stampa nazionale, ha detto che sarebbe giusto rifare la partita. Però ieri è arrivata già la risposta netta di Blatter, no grazie, la partita non si può rifare. D'altronde insomma la grana per la FIFA è enorme, perché insomma Henry da un lato è un simbolo del fair play e delle campagne contro il razzismo, dall'altro però insomma rifare una partita per un errore arbitrale non si è mai visto, quindi sarebbe un precedente importante e clamoroso. Diteci naturalmente la vostra, ottavogiorno@radio24.it. Abbiamo finito anche per oggi, ringrazio in regia Alessandro Chiappini e vi do appuntamento come sempre a sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23 su Radio 24.